Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Ci siamo, sto mettendo ordine in un sacco di pagine che ho strappato dai quotidiani di oggi, anche perché ci sono alcuni argomenti che approfondiremo anche noi in questo sabato del villaggio. Il nostro sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, anche noi liberiamo la voglia di fare parlando delle nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Poi nella terza ora staremo ancora insieme con RadioTube dalle 17 alle 18 con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per tenerci compagnia, visto che noi vi teniamo compagnia, ma fateci sentire anche le vostre opinioni. Magari siete in giro in caccia di regali, secondo me, io vi immagino così, in macchina magari, che girate cercando parcheggio e cercate gli ultimi regali. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms e per i vostri messaggi WhatsApp, ma c'è anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola, anche il mio account di Instagram. Ah, tra poco posterò la foto con l'ospite che ci è venuto a trovare oggi. Tra poco, sempre @MartaCagnola. Allora, i temi di questa puntata, nella quale continuiamo a preparare regali. Io prima ho detto gli ultimi regali, ma perché noi sono già 2 settimane che facciamo un po' le liste e diamo i consigli per tutti i gusti, per tutte le tasche, soprattutto, lo sottolineo, per tutte le tasche. Ma parliamo anche delle tendenze, delle cose che ci terranno compagnia nelle feste di Natale. Allora, cosa succederà nella prima ora? Beh, l'appuntamento con il gastronauta, stiamo facendo il giro dei dolci, questa volta parleremo di torrone. Ancora con Giulia Crivelli, la moda. Visto che ci sono arrivati molti messaggi, continuiamo un po' a parlare delle cose che vanno particolarmente di moda in fatto di abbigliamento in questo periodo. Tanti mettono pacchettini con qualche capo di abbigliamento sotto l'albero. Poi un momento di nostalgia, perché si festeggia una delle trasmissioni televisive più amate dai 30-40enni, più o meno, anche un pochino più giovani, insomma, così, un po' di nostalgia tra poco, ma prima torniamo a parlare di serie TV. Ieri sera abbiamo ordinato greco, cinese e italiano. E gli hot dog. Ho dei vaghi ricordi. Alla fine cosa abbiamo guardato? Baby monitor, brividi di paura o apprendiste squillo? No, mi ricorderei di Tori Spelling. Dovrebbero fare un film sull'incidente di Tori al ristorante giapponese Teppanyaki Griglia Mortale. Io credevo di sapere esattamente cosa volessi, dove andassi, ma ultimamente, non lo so, sembra tutto confuso. Siamo felici. Luke e io siamo felici. Non sono capace di farlo. Sono stata sposata per 50 anni e metà di me se n'è andata. Sto facendo riordino. Se l'oggetto ti dà gioia, lo tieni, altrimenti lo butti via. Non mi dà gioia. Sta portando via le tue sedie. Non mi danno gioia. Allora, gli appassionati e le appassionate l'avranno già riconosciuto. Per mesi si susseguivano le voci: tornerà questa Gilmore Girls, fa fatica anche a pronunciarlo, Gilmore Girls, in realtà Una mamma per amica in Italia, che era stata una serie TV veramente molto molto amata nei primi anni 2000. Ebbene, è tornata. In questo periodo, in questi giorni, il delirio sui social network di commenti. Chi soprattutto usasse Facebook e Twitter ne sente parlare. Io sono poco preparata su questa Gilmore Girls perché me l'ero un po' persa all'epoca. Allora, per capire il successo di questo fenomeno, di questo ritorno, ma anche per farci consigliare qualcosa di nuovo, magari da vedere durante le vacanze di Natale, ci colleghiamo con uno dei nostri esperti preferiti di serie TV. Lui è il fondatore di serialminds.com e però è anche channel manager di Iris TV, ma noi in realtà lo chiamiamo sempre per le serie TV, ma è per il suo lavoro vero a Iris, che è un canale che va benissimo. Buongiorno a Diego Castelli, ciao Diego. Buongiorno, ciao. Noi ti chiamiamo sempre per il tuo hobby e non per la tua professione. Sì, è vero, però va bene. Ma cioè, mi piace anche così, insomma. Dedichiamoci anche alle passioni nella vita. Esatto. Allora, Gilmore Girls, come vedi, io faccio anche fatica a pronunciare il nome, che poi appunto in Italia era noto come Una mamma per amica. Ma perché tutto questo delirio? Ma secondo me ci sono in realtà due motivi diversi. In primo luogo perché Una mamma per amica è una serie del 2000, che è andata in onda dal 2000 al 2007. Evidentemente ha avuto un seguito molto, molto grande e forse di cui all'epoca non si aveva bene la percezione, proprio perché all'epoca i social network non c'erano, cioè era un mondo davvero completamente diverso dal punto di vista della comunicazione, dei fan. Quindi il fatto che sia tornata ha consentito a tutti quelli che all'epoca non avevano piattaforme per entusiasmarsi, che non fossero il bar sotto casa, si possono sfogare adesso o la classe a scuola, adesso si sfogano come proprio come se fosse il ritorno di chissà cosa, cioè, sono tornati i Beatles. Ma in più c'è questa questione che in realtà riguarda Netflix e riguarda questa capacità che hanno avuto loro, che stanno avendo, di intercettare anche un certo tipo di vibrazioni, diciamo, che passano all'interno dei fan delle serie TV e andare a beccare quelle per cui ci sono le condizioni per dire rifacciamo 3-4 puntate di quella serie vecchia là. E così fanno sì che i fan possano appunto rivedere i vecchi beniamini di una volta e loro ne ricavano molto in termini di reputazione, perché ormai praticamente quando una serie finisce, magari viene troncato il finale, non si sa bene come va a finire per le dinamiche che tutti conosciamo delle serie TV, delle grandi reti americane, subito la gente va da Netflix e dice ci fate voi il finale per piacere, visto che quegli altri. E quindi insomma è diventata in questi pochi mesi un po' il simbolo di quelle che sono le nuove piattaforme, sia dal punto di vista comunicativo sia dal punto di vista produttivo, e poi rimane una bella serie divertente e simpatica. E devo dire che come accade sempre con queste serie molto amate, il pubblico non è mai del tutto contento, perché ci sono quelli contenti che tornasse, quelli che hanno detto sì, però insomma i vostri lettori come hanno reagito? Come sono le reazioni di fronte a questo? Ma nel complesso devo dire che le reazioni su Serial Minds sono state positive, nel senso che è prevalsa effettivamente un effetto nostalgia, per cui pur sapendo che erano solo 4 speciali, che non va considerata come un vero ritorno, diciamo, però è piaciuto l'equilibrio tra il non fare una cosa eccessivamente pacchiana, quindi puramente commerciale, come alle volte può capitare con certi film, no? Che magari dopo 10 anni ti fanno il numero 5, ma ti rendi conto che non aveva senso. Qui comunque un senso ce l'aveva dal punto di vista appunto nostalgico, narrativo, e anche per quello che è la serie, che è una serie in qualche modo di provincia, che quindi si presta anche al recupero. Secondo me, per esempio, ti faccio un esempio che secondo me non funziona, i Sex and the City, no? Sex and the City, che la serie aveva avuto un certo peso anche culturale, man mano che hanno cercato di rifare i film, poi si è sentita un po' di stanchezza, anche le attrici cominciavano a invecchiare, cioè era una cosa un po' diversa. In questo caso secondo me ha funzionato meglio. Detto questo, poi ci sono anche le persone che sono, come dire, contente di quei 7 anni che hanno vissuto tempo fa e avrebbero preferito non rivedere, non andare a rivangare un ricordo che per loro era perfetto. Purtroppo le due anime sono cioè non si può evitare che ci siano. Sì, un gran classico succede davvero col ritorno delle serie. Esatto. Quando c'è allora, Diego, invece, cosa ci consigli a tuo gusto, visto che ci vediamo sempre tantissimo di te, perché ci fai scoprire delle cose da non perdere? Magari appunto vacanze di Natale, a cosa ci dobbiamo dedicare? Ci facciamo qualche maratona oppure qualche serie da scoprire? Se parliamo di Natale, una delle cose che a me stanno piacendo di più in questo periodo, ma non solo a me, nel senso è un po' uno dei fenomeni dell'autunno seriale americano, è questa This Is Us, che è nuova serie di NBC, e appunto sta piacendo moltissimo sia al pubblico che alla critica, è una delle serie più viste tra le novità, diciamo, del panorama autunnale americano, ed è una serie che si presta secondo me benissimo a Natale, ora sono arrivati diciamo alla metà della prima stagione, e è un dramma familiare che giocato su due piani temporali diversi, perché si parla dei genitori di questa coppia di genitori che hanno avuto 3 gemelli, di cui uno è morto, allora hanno adottato un altro bambino che era rimasto senza casa. E questo succede subito all'inizio, perché spoileriamo niente. Anzi, facciamo una cosa, sentiamo un estratto dal trailer di This Is Us, ecco qua. Yeah. Okay, I'm ready. Suit's on? Yes, ma'am. Your birthday suit. Only one I've got. How could you possibly want me right now? In any state of my life, you arouse me. I bet I can make that go away. There's nothing you can say. My water just broke. Yep. Yeah. Allora, questa è la scena di lui e lei. Lei si presenta con questo pancione proprio all'inizio e lui la ama ancora moltissimo e soprattutto la desidera moltissimo nonostante abbia questo pancione enorme, e dice: "Acch, si sono rotte le acque, grande scena classica di ogni serie, esatto, TV, cioè sempre... esatto, poi si gioca tra loro, i figli, e quindi è un dramma familiare tutto sommato classico dal punto di vista delle dinamiche, però ha un'eleganza, una capacità di creare questi racconti circolari per cui tutto torna, no? Sai quei racconti in cui ci sono i pezzi del puzzle che vanno tutti al loro posto per creare, può essere la morale, può essere il modo in cui un figlio riscopre un genitore in un certo modo che non conosceva, quindi temi classici però affrontati con grandissima eleganza proprio di scrittura, di capacità, e poi degli attori che secondo me sono bravissimi, da Milo Ventimiglia alla stessa Mandy Moore, insomma tutti molto bravi, tutto molto bello, e secondo me è adattissimo per il Natale. Va bene anche quelli come me che piacciono le serie un po' più soft, senza... assolutamente, assolutamente. Anzi, è una serie soft che però ti puoi vantare comunque di vedere perché è bella. Ecco, l'hai detta bene. Oh, come l'hai detta bene, Diego. Perché, allora, fa figo dire no, ma perché a me piace, no, questa, qui sparano, qua ci sono gli zombie. Se tu dici a me piace una comedy, sei sempre un po' sfigata. Invece questa, esatto, è una serie soft che ti puoi vantare. C'è anche Gian dall'altra parte del vetro che ride. È la detta giusta, Diego. Una serie soft che però ti puoi vantare di guardare. Oh, esatto, bellissima. Un altro consiglio, Diego. Se invece volete andare, se invece del Natale, della gioia, non vi interessa niente, io consiglio di qualcosa. Ormai è un po' è dell'anno scorso, ma in Italia sta andando adesso, cioè dell'anno scorso, di quest'estate, però in Italia sta andando adesso, che è The Night Of, che secondo me è stata una delle sorprese di quest'anno. Può darsi anche che rimanga solo ferma la prima stagione. Storia di un ragazzo che si trova in una situazione un po' ambigua, noi non sappiamo, muore una ragazza, lo accusano, e quindi è tutta la storia di lui che va in carcere e anche del processo che lo segue, bisogna capire se è colpevole o no. Altra serie da mozzare il fiato, ma non nel senso solo del ritmo e della suspense, che quello c'è ma non è quello, è proprio una questione di, anche ancora una volta, di stile, di capacità di fare un racconto che sembra classico, che sembra la solita cosa, e in realtà ti racconta delle cose nuove. Poi c'è un John Turturro che è meraviglioso. Questa sta andando in onda su Sky Atlantic, mentre This Is Us sta andando in onda su Fox Life. Ok. E quindi quello lì. Se invece ancora, visto per cambiare piattaforma, se invece ancora non avete visto i vari Stranger Things, piuttosto che anche su Netflix, sto parlando, piuttosto che The Crown, la storia della regina Elisabetta, quelle sono altre due cose che secondo me a Natale sono la morte sua. E anche qui adatte anche per me. Sì. Beh, Stranger Things, scusami, The Crown, ne abbiamo parlato anche sul sito, come il tentativo di Netflix di fare Rai 1, no? Dopo aver fatto, certo, delle serie molto anche particolari, molto fuori di testa, partendo dal buon vecchio House of Cards, hanno fatto una storia che è la storia dei reali d'Inghilterra recenti, quindi un biografico, se vuoi. È stata, credo, la serie più costosa di Netflix, perché c'ha delle ambientazioni, dei costumi che lasciamo perdere. E però, appunto, è un racconto classico, però che ti racconta un mondo che guardiamo sempre con un certo occhio di riguardo, perché i reali inglesi sono sulle pagine di gossip da 80 anni a questa parte. Il fatto che adesso ci sia una serie che te la racconta in modo specifico è abbastanza divertente, e anche lì ci sono dei grandi attori che interpretano in maniera, tra l'altro, molto verosimile anche dal punto di vista fisico, certo, la regina Elisabetta piuttosto che il principe Filippo, eccetera. Stranger Things invece è un altro fenomeno. Dico, che ripeto, per il Natale, più che altro perché anche quella paradossalmente è una serie molto natalizia da un certo punto di vista, perché certe immagini che ha creato, le lucine per comunicare con l'aldilà, le cose, sono tutte cose che, se ancora non è stata vista, anche lì siamo nel nostalgico degli anni Ottanta, i ragazzini che hanno l'avventura, i mostri nelle altre dimensioni, cioè sono tutte cose che uno si può vedere per 13 ore di fila sotto l'albero con la cioccolata e la copertina, che secondo me c'è sempre il meglio, cioè il modo migliore per passare Natale è quello liato dei parenti. Sono d'accordo. Parenti un po' e poi ciao a tutti, parenti, divano. Sì, giusto, scambiamoci due regali e poi via. Ecco, Diego, allora lunedì a Milano ci saranno Phyllis Logan e Michael Fox, i due nomi non dicono tanto, ma sono il cameriere Andrew Parker e Mrs. Hughes di Downton Abbey, che fanno il firmacopie dell'ultimo cofanetto dell'ultima stagione di DVD. E quindi grande, siamo tutti un po' orfani da Downton Abbey. Ma io ho letto che tu su Serial Minds hai parlato di una nuova serie, e ti chiedo questo per concludere, perché Lady Mary di Downton Abbey, che noi abbiamo amato moltissimo per la sua eleganza, il titolo del tuo pezzo è Good Behavior. Lady Mary di Downton Abbey diventa ladra, alcolista e zozzona. Che cosa succede? Che cosa ha fatto? Ma succede che quando ti affezioni a un personaggio che fa un certo tipo di cioè a un attore che fa un certo personaggio per 7 anni e quel personaggio è particolarmente caratterizzato, come quello di Michelle Dockery in Downton Abbey, cioè ragazza nobile che ogni tanto aveva delle deviazioni, però sempre molto composta, con questo accento inglese pesantissimo, e poi finisce in America a fare una serie di TNT in cui recita con l'accento americano, peraltro molto bene, e in cui fa la ladra proprio di quelle, sai, quelle che organizzano, tipo Ocean's Eleven, che organizzano mille cose per rubare gioielli, che va a finire, si mette insieme con un sicario che stava per ammazzare una povera donna, soldato dal marito, e lei ci finisce insieme a fare una roba che sembra 50 sfumature di grigio. E tutto questo è alcolista, si droga ogni volta che può, Insomma, a vederla siamo rimasti un po' così, perché mi ha detto, ma tu non eri quella che prima in Inghilterra faceva tutta la sostenuta? Sono quelle cose che quando vedi ci rimani un po' così, poi magari dopo 5 episodi allora ci stai, ma la verità è che pensi sempre che compaia il conte da qualche parte e le dici, ma che diavolo stai facendo? Sì, abbiamo passato anni a imparare tutta la classificazione tra valletto, footman, esatto. E cose, adesso vabbè dobbiamo parlare altro. Allora, c'è arrivato un messaggio WhatsApp da Anna via appunto WhatsApp 349-238-6666. Siamo la generazione delusa non più dall'amore ma dai finali di stagione delle serie TV. Anna, è piuttosto vero, anche se sull'amore anche lì andiamo forti, guarda, non ti dico niente, ma anche sull'amore ne possiamo raccontare tante. Fantastico Diego, grazie per essere stato con noi. serialminds.com, sito assolutamente di riferimento, tra l'altro vabbè, insomma, anche Iris, ma noi soprattutto anche Iris, rete di riferimento. Grazie Diego Castelli per essere stato con noi. Ciao Diego, alla prossima. Ciao. Allora, noi ci ritroviamo tra pochissimo perché dobbiamo fare un bagno di nostalgia. Bello, bello, bello, bello, ma prima un po' di traffico. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Il sabato del villaggio. Bipo Bambino, mi ricordo, perché adesso Piccolo mi ha lasciato tutto solo e devo fare le cose grosse. Io mi sono dato all'alcol, alle donne no, sto scherzando, però mi hanno messo in un baule e sono un pochino polveroso. Io ho cominciato a fare, si può dire, fare il cretino, più o meno fin da bambino, perché ero timido e allora cercavo di rendermi simpatico. Bim bum bam, sempre pieno di racconti, e col vostro amico Juan è una giostra d'avventura. E beh ragazzi, un momento di tuffo nel passato. Avete sentito la voce di Juan, che era Juan, ma anche che non era Juan, che era Pietro Baldi, cioè quello che ha dato la voce per tanti anni a uno dei pupazzi, anche se poi lo sentiremo, non si poteva dire pupazzi, più amati dai bambini di tanti tanti anni, perché dall'inizio degli anni Ottanta ha tenuto compagnia a veramente generazioni di bimbi. Domani su Mediaset Extra dalle 10 alle 20 una maratona di 10 ore per celebrare il manifesto generazionale dei teenager anni 80 e 90. Generazione Bim Bum Bam, grandissima maratona TV. Per capire qualcosa di più di questo fenomeno di Bim Bum Bam andiamo a chiamare un'amica del sabato del villaggio che l'ha studiato talmente tanto questo fenomeno che ha confezionato lo speciale che andrà in onda in questa maratona con tutte le interviste a tutti i protagonisti, e ci ha anche regalato qualche audio in anteprima, così curioseremo anche un po' dietro le quinte di questo generazione Bim Bum Bam. Bim Bum Bam Generation, gli anni 80 e 90 tra parentesi. È con noi la nostra amica Stefania Carini. Ciao Stefania! Ciao a voi! Allora, per una volta non ti chiamiamo parlando di serie TV, non so se hai sentito, abbiamo interrogato un po' Diego Castelli, questa volta che anche tu conosci bene, perché ti chiamiamo in causa in quanto autrice di questo documentario che ci terrà compagnia in questa giornata, tutte le interviste, le testimonianze di Licia Colò, Pietro Ubaldi, Carlo Sacchetti, Roberto Ceriotti, Deborah Magnaghi, Carlotta Pisoni Brambilla, Cristina D'Avena. Insomma, un sacco di persone. Allora, intanto, Stefania, ti posso chiedere, ti faccio subito la domanda a 10 milioni di dollari, perché quando sentiamo partire questa sigla ci viene subito un tuffo al cuore? Cosa ha avuto di speciale? Te lo sai, ovviamente te lo sei chiesto, chissà se ti sei data una risposta dopo aver incontrato tutte queste persone. Cosa ha di speciale questo Bim Bum Bam? Certo, me lo sono chiesta anche perché credo che il mio futuro sia quello di diventare, insomma, il Paolo Limite di questa generazione. Forse ora, insomma, che ci sia una figura simile a quella di Paolo Limiti, anche perché è nato chi ha avuto la propria infanzia negli anni 80-90. No, è ovvio che, come tutti i fenomeni dell'immaginario che hanno, come dire, colpito in maniera profonda tante persone nello stesso momento, Bim Bum Bam è un ricordo che ci rimane, è qualcosa che ci rimanda subito alla nostra infanzia e soprattutto a un momento in cui la televisione era ancora, tra virgolette, la vecchia televisione. Prima stavate parlando di Netflix, pensiamo a come sia possibile appunto oggi vedersi una serie TV in qualsiasi momento, eppure poi ci troviamo sui social network, no? Certo. A parlarne. Allora non era così perché non esistevano, magari ti trovavi il giorno dopo a parlarne con i tuoi compagni, però al contrario era l'appuntamento quotidiano, tutti i giorni, molte ore al giorno, allo stesso orario, e questo creava un altro tipo di comunità, di racconto e di compagnia. In un certo senso sono le due facce della stessa medaglia, no? L'immaginario di una mamma per amica su Netflix ci nutre in un certo modo, in maniera differente sempre, comunque, ovunque sui social. Bim Bum Bam era quella TV che ci nutriva tutti contemporaneamente. Sì, magari erano i bambini, tutti i bambini che sono cresciuti con Bim Bum Bam e che poi erano diventati ragazzi con una mamma per amica. Può starci anche nella stessa generazione. Allora, assolutamente. Abbiamo detto che hai incontrato per Mediaset Extra tutti i protagonisti. Intanto voglio sentire un po' cosa ti hanno raccontato Deborah Magnaghi e Carlotta Pisoni Brambilla, che sono due nomi che i ragazzi, appunto, di ieri, anche un po' dell'altro ieri, si ricordano benissimo. Cos'era per loro Bim Bum Bam? Bim Bum Bam è stato davvero un programma di rottura. No, ma non sto scherzando, nel senso che per la prima volta i bambini potevano parlare con degli esseri umani, con dei pupazzi, cioè avevano una realtà televisiva, ma che potevano vivere anche loro in prima persona, e questa è stata ovviamente una cosa innovativa, e ancora oggi, ed è bellissimo. Io trovo ragazzi ormai trentenni, 35 anni, che mi dicono: siamo cresciuti con voi, ma che emozione! E per me veramente è un ricordo, è un'emozione bellissima. E parte fondamentale erano i pupazzi. Assolutamente. Che all'epoca non si potevano chiamare pupazzi, ti ricordi? Sì. Perché c'era stato dato l'input di far credere che fossero comunque reali, vivi. C'era Juan, che rappresentava il bambino di Iscolo, invece Ambrogio, che era il mio compagno, diciamo nella famiglia, nel nucleo familiare tra virgolette, che componeva appunto Carlo, Ambrogio e me, rappresentava il bambino buono, affettuoso, saggio anche, per cui i bambini potevano veramente identificarsi con chiunque, e noi eravamo i fratelli maggiori. Cosa c'è dietro la costruzione di una trasmissione? Io stavo guardando un po' gli anni in cui conducevano Deborah Magnaghi e Carlotta Pisoni Brambilla. Hanno cominciato nell'89, quindi Stefania, eri bambina anche tu nell'89. Com'è stato rincontrare questi? È stato molto strano, devo dirti. Perché comunque, da un lato, magari come le guardavi tu? Cosa? Le guardavi da bambina? Assolutamente, io guardavo Bim Bum Bam, guardavo tutti i cartoni animati, era il mio programma di riferimento, e voglio dire, se faccio questo mestiere è anche perché ai tempi mi sono assorbita trasmissioni su trasmissioni, dai canali Mediaset alla Rai e così via, i cartoni animati. Poi mi sono laureata in animazione, quindi quella è stata, come dire, l'impronta. Incontrarle è stato davvero strano, soprattutto perché, ma tutti loro, anche Roberto, che era il mitico Batto Roberto, Ubaldi, erano i tuoi volti di riferimento, dove li riconosci ancora ovviamente, sono molto professionali, molto gentili, simpatici, divertenti, ti sottolineano come allora lavoravano tanto ma si divertivano anche tanto, anche perché era una TV con un'idea editoriale forte, che macinava tante ore al giorno ma con un obiettivo ben preciso. La cosa, se vuoi, più divertente, come tu sai, forse io non amo quando intervisto insomma personaggi anche molto famosi, non mi faccio mai le foto con loro perché lo trovo ti sei fatta le foto con i conduttori di Bim Bum Bam? Certo. Allora, se hai il con coraggio, le due ragazze, sì. Se hai il coraggio di twittarne una, la retwitto. Se hai il coraggio, io lo faccio, Stefano. Non ne avrai mai, non esageriamo. Dai, fallo. Allora, senti, messaggi al 349-238-6666. Luca, ragazzi, ho 33 anni e mi state facendo commuovere ricordando quei pomeriggi. Allora, Luca, domani guarda in TV la, tutta la, la generazione Bim Bum Bam. Poi qualcuno ci chiede di Alessandra Valeri Manera, che era un po' la grande responsabile poi delle TV, certo, delle TV così per i ragazzi. Carlo. Sì, ne parlano tutti benissimo, come una grande professionista che, come dire, faceva lavorare tanto, pretendeva tanto, ma dava anche tanto umanamente. E poi Carlo che ci scrive: io mi ricordo con estremo affetto Five, il serpente rintronato. Diciamo che One aveva un po' soppiantato Five, che era il serpentello, e poi c'era stato anche Four, che era quello di Rete 4, così ogni rete aveva il suo pupazzo. Ma non possiamo dire pupazzo, perché ci hanno detto che non si poteva dire pupazzo, perché erano gli amici. Stefania, hai anche intervistato la leggendaria Cristina D'Avena, ne abbiamo un pezzettino. È stato un programma estremamente semplice, è stato un programma che è andato a colpire veramente il cuore dello spettatore, faceva compagnia al bambino, il bambino guardava il cartone animato, il bambino guardava Paolo, guardava i conduttori, scriveva, quindi riusciva ad interagire con diciamo, il conduttore e con tutto lo staff, chiamiamolo così, di Bim Bum Bam, e quindi noi lo rendevamo partecipe, quindi non so, leggevamo le letterine, parlavamo con il bambino che si collegava tra virgolette da casa per poterci, perché sperava che magari noi leggessimo la letterina, la sua letterina, e quindi è stato un programma di cartoni e di racconto e di compagnia. E quindi oggi, quando io faccio concerti e il pubblico magari mi dice: ah, che bello il Bim Bum Bam, magari tornasse, insomma, devo dire che Bim Bum Bam manca un po'. Bim Bum Bam manca un po', Cristina D'Avena. Ma Stefania, ma hai twittato allora a ISDV con Marta Cagnola, le spiegherò Bim Bum Bam perché lei è generazione Topo Gigio. Ma non è vero, ma anch'io guardavo lo Bim Bum Bam. Lo sai che amo giocare su quella piccola differenza di età che c'è, ma tra noi. Ma quella generazione Topo Gigio, ma come ti permetti? Ma cosa mi dice mai? No, ma io me lo ricordo, ma è che io guardavo più telefilm già allora che cartoni animati, però no, mi ricordo benissimo anche Bim Bum Bam. Ma sai cosa c'è? Mi sembra che noi, col fatto che abbiamo avuto questa televisione davvero che era un rito per tutti, forse abbiamo dei ricordi più così omogenei che ci tengono un po' tutti insieme come ricordi, come immaginario. Forse questa cosa si perderà adesso col tempo, con tante TV, con tante piattaforme, no, Stefania? Non lo so, è una riflessione che ci facciamo tutti, ma anche ce la facciamo tra di noi che siamo quella generazione lì, e che solo adesso l'ultima puntata tipo di Westworld, ad esempio, ognuno se l'è vista quando poteva, registrata in un secondo momento, spoiler, non spoiler. Eppure, al di là del tempo, e questa è la cosa interessante, al di là del momento topico, in cui, momento preciso in cui tu te la vedi in diretta con tutti gli altri, c'è comunque una condivisione forte di immaginario, nel senso che anche se io me la vedo 3 giorni dopo, quella cosa poi io la vado a cercare sul web, vado sui forum, vado sui social network, e allora ecco che di nuovo, come dire, in maniera molto trasversale, puntiforme se vuoi, di nuovo c'è un senso di comunità che è nel prodotto, che io però, come dire, vivo, rivivo e continuo a vivere tante tante volte su tante piattaforme, anche il web. Forse è questo che sperimentano sicuramente i ragazzi di oggi, che comunque hanno dei personaggi forti che vanno, che seguono, e noi ce ne accorgiamo di meno perché non c'è l'appuntamento fisso, certo, ma loro ce l'hanno, e alla fine poi ce l'abbiamo anche noi, perché vediamo le serie, i programmi magari in maniera diversa, ma poi li andiamo a ricercare su, andiamo a ricercare la comunità laddove c'è, e spesso appunto è il web. Ok, quindi diverso, ma alla fine il fenomeno in qualche modo si ripete. L'immaginario comunque crea sempre comunità quando riesce a essere forte. Questo è un periodo di forse tanti immaginari, ma anche molto forti in una loro maniera forse diversa da Bim Bum Bam, che è durato così tanti anni, o forse come vecchie serie che duravano davvero tanti anni, eppure che ci sono ancora titoli, personaggi, canzoni che colpiscono molto e alla fine creano un ricordo. Stefania, domani Generazione Bim Bum Bam, Bim Bum Bam Generation, gli anni 80, e poi mi piace anche tra parentesi le 90, su Mediaset Extra, una maratona dalle 10 alle 20, straordinario. Grazie per essere stata con noi, seguiremo tutte le tue interviste, grazie per avercene regalato qualche pezzetto in anteprima, quindi a domani su Mediaset Extra, Stefania Carini, ciao! Ciao! Verona-Torino, trasferta d'affari, io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare, il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali, basta un'autoradio digitale. DAB Plus, chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il sabato del villaggio. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing the bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Torniamo insieme dopo un bel bloccone grosso di pubblicità. Io sono contenta perché vuol dire che Radio 24 piace. Cosa vi devo dire? Tanta pubblicità vuol dire che piacciamo tanto. Però abbiamo rubato un po' di tempo al nostro gastronauta, allora la prossima volta gliene daremo un po' di più, perché abbiamo già la colina in bocca. Allora, Natale, Mina che canta, ma di quale dolce parleremo mai? Ciao Davide, Davide ciao. Paolini. Oggi parleremo di torrone, ma ti prometto la prossima volta di raccontarti di una chicca che ho scoperto ad Alassio. Alassio, Alassio. Io domani vado a Sanremo, quindi non sono proprio in zona, però Alassio già bene. Ne riparleremo la prossima settimana con più tempo. Oggi parleremo di torrone come avevamo pensato, perché è uno dei dolci che arriveranno sulla tavola, però sempre di meno se ne parla, allora bisogna parlarne. Allora diciamo che l'Italia è un paese pieno di torroni, perché nocciole, mandorle, noci, ovunque l'Italia è sparsa di torroni. Cominciamo dalle nocciole. Le nocciole vengono così collocate nelle langhe perché c'è la tonda gentile, ma anche in provincia di Avellino ci sono degli ottimi torroni fatti con le nocciole di quell'area, di Giffoni in particolare, che tu conosci come Festival del Cinema, certo. Sicuramente. Ma la nocciola tonda quindi è importante, perché forse la maggior parte di produzione avviene in quella zona. Allora voglio citare anche dei produttori piccolissimi, ad esempio Camulin è un piccolissimo produttore a Visone, in provincia di Cuneo, ed è veramente una chicca, ma poi anche c'è anche relanghe, quindi le nocciole. Poi andiamo alle mandorle. Le mandorle sono soprattutto in Sicilia. Sono in Sicilia, ci sono dei torroni in Sicilia che però non si chiamano torroni. Si chiamano giuggiolena in una parte particolare della Sicilia, ma sono molto particolari. La giuggiolena praticamente è quel torrone ricoperto di sesamo, di, diciamo di sesamo, quindi è di miele, di mandorle e c'è anche ricoperto di sesamo. Invece in un'altra parte della Sicilia c'è la cubaita. La questa la conosco. Appunto, cubaita e giuggiolena sono queste due grandi specialità che si trovano tra Noto, tra tutta quella zona diciamo abbastanza famosa anche dal punto di vista artistico e architettonico. Diciamo che anche a Modica si trovano questi tipi di torrone molto particolari. Torniamo indietro sulla mandorla, ma la mandorla significa anche mandorlato. Mandorlato che ha la sua diciamo capitale a Colonia Veneta, dove pare che sia nato il mandorlato addirittura a metà dell'Ottocento, diciamo per un piccolo produttore. Quindi mandorlato, che è una derivazione del torrone, però praticamente cioè siamo sempre su questa famiglia. Mi dimenticavo di ricordare che la cubaita e la giuggiolena si trovano in due posti famosi, uno a Modica alla dolceria Buon Aiuto e invece l'altro si trova al Caffè Sicilia di Noto, quindi sono i due diciamo posti importanti. Ma il posto più sorprendente, di cui si parla sempre poco per quanto riguarda il torrone, è Bagnara Calabra. Bagnara Calabra non se ne parla mai, però Bagnara Calabra bisogna sapere che è l'unico torrone IGP italiano. E anche qui diciamo che nasce a metà dell'Ottocento, però si parlano di tutt'altre aree, di questo che è l'unico diciamo portabandiera con questo sigillo comunitario non se ne parla mai. Vorrei ricordare che in Spagna invece ci sono due torroni IGP, uno a Gijón e l'altro ad Alicante, e quindi vuol dire insomma che la Spagna su questo ci batte, nonostante noi abbiamo tanti torroni, probabilmente anche per inadempienze magari chi deve fare i consorzi, deve creare i consorzi e poi ottenere il riconoscimento a Bruxelles. Ma ancora, in Italia un'altra capitale è Cremona. E io sono partita con Mina apposta. Ecco, appunto, c'è il Festival del Torrone, quindi lì nasce, pare, da un banchetto di nozze fra gli Sforza e i Visconti, tra due rampolli degli Sforza e dei Visconti. Perché? Perché fu presentato un dolce che era a forma del torrazzo, che è diciamo questo posto storico di Cremona, e siccome la forma era quasi uguale, questa da torrazzo pare che sia nato il torrone. E poi ancora andiamo in Sicilia perché a Tonara c'è anche qui un torrone molto famoso, che è il torrone di Tonara. Poi ancora possiamo continuare nelle Marche, Camerino è un altro luogo sicuramente di grande produzione di torrone. Insomma, abbiamo una mappa dei torroni in questo paese veramente, veramente incredibile. E purtroppo, come dicevo, negli ultimi anni è un po' sono nati tutti i torroni, magari fatti in maniera particolare, dove dentro ci si mette un po' di tutto quasi per scopiazzare poi diciamo il panettone, che ormai anche i panettoni, come dicevamo tempo fa, c'è un po' di tutto dentro il panettone, dalla frutta al pistacchio ad altri che storicamente e originariamente non c'erano. Davide, ma torrone friabile o morbido? Ecco, c'è il torrone friabile e c'è il torrone morbido. Qui ci sono appunto due diciamo scuole di pensiero, chi preferisce il morbido e chi il duro. Di solito quello piemontese è duro come tipo di torrone, anche quello di Colonia Veneta, il mandorlato, di solito molto duro, che bisogna spezzarlo. Però ci sono molti che fanno sia l'uno che l'altro. Poi ci sono anche coloro che lo ricoprono di cioccolato, lo ricoprono di pistacchio. E secondo me, vabbè, il tradizionale rimane sempre diciamo il principale e il più buono di tutti. Il problema del torrone, ecco, con cosa si beve il torrone? E questo è un altro punto. Io direi che è meglio non bere niente col torrone, perché è già talmente dolce, poi c'è miele dentro. Ci sono tanti ingredienti, ma miele, mandorle o miele e abbiamo detto nocciole. Oppure ecco, io ho dimenticato un'ultima diciamo espressione del torrone, che è quella con le noci. C'è anche un torrone delle noci che si trova in certe parti della Sardegna, fanno questo torrone con le noci. Ma il torrone è anche allegria, perché se uno va a queste fiere, mm-hmm, trova queste bancherelle con il torrone, cioè tanti torroni che vien voglia veramente di mangiarli tutti. Soprattutto questi blocchi enormi, ecco, soprattutto il torrone di Tonara, questo sardo, si vedono queste bancherelle che hanno questi pezzi, che sembrano pezzi di marmo, che ti dicono vieni, vieni, mangiami, mangiami. E anche in Piemonte c'è un produttore che si chiama Sebaste, che si vede un po' ovunque con questa, con queste bancherelle dove ci sono i mercati, ci sono le fiere, però attira sicuramente come il croccante, insomma. Chi è che non si lascia andare di fronte a questo croccante che viene fatto sul momento, questo profumo del croccante che gira su questi pentoloni che si trovano alle fiere, quindi che dà molta allegria, fa diventare molto bambini, diciamoci la verità. Che meraviglia. Il torrone e il croccante ci fanno diventare bambini e quindi ci fanno tornare indietro, e allora sicuramente è sempre una festa. Sono d'accordo. Il torrone è sulle tavole natalizie, sicuramente il torrone c'è e si trova, quindi ormai di tante marche, perché sono molto cresciute. Un tempo era solo artigianale, poi piano piano ovviamente la domanda e diciamo l'industria ha creato anche dei torroni che si trovano un po' ovunque, anche a dei prezzi insomma che lasciamo perdere, insomma. Lasciano un po' pensare, però devo dire che a me il torrone piace, come dicevo, non accostato con nessun vino. Ecco. Io credo che si possa rovinare assolutamente con il vino. Però mi piacerebbe lanciare, come ho lanciato il panettone d'estate, il torrone d'estate. Mi piace anche col gelato a me, ma mi piace anche col gelato. Ti piace col gelato? Con quale gusto? Allora, mi piace col gusto di crema, ma sono anche capace di fare il gelato al torrone. Ti dico perché mi piace fare il gelato. Quindi il gelato al torrone mi piace molto. Hai ragione, c'è il gelato al torroncino, come lo chiamano molte gelaterie, che è molto diffuso. È ottimo, e in fondo cos'è? È un torrone gelato. Come dicevo prima, l'idea del torrone gelato d'estate potrebbe essere anche un'idea da lanciare. Fantastico. Davide, sono le 15:47 minuti, quindi stiamo dando un po' in ritardo il traffico. Io sono affascinata da questo torrone estivo, ma la prossima settimana vogliamo la chicca di Alassio. Segniamocela, che così la prossima settimana ci ritroviamo ancora con la tua chicca. Grazie Davide, un abbraccio grandissimo. A presto. A Davide Paolini, diamo un po' in ritardo il traffico. Scusa collega della viabilità, ci ritroviamo tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Spirits up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Kylie Minogue e Mika insieme, io li ho visti dal vivo a Stasera a Casa Mika. Che bravi lei, che bella, meravigliosa, che ha riproposto con dei brani nuovi, ad esempio questo, il suo album natalizio. Quest'anno tanti tanti album natalizi, li stiamo un po' segnalando tutti, che così facciamo un po' di segnalazioni e anche un po' di aria di Natale. I pacchetti con le cose belle da mettersi, di tendenza, ma anche che valga la pena comprare. C'è solo Giulia Crivelli che ci può dare i consigli giusti. Ce l'abbiamo, Giulia. Ciao Giulia. Ciao, buon pomeriggio. Allora, io mi sono segnata tutto quello che ci hai detto nelle scorse puntate, ma c'è ancora qualcosa da segnalare? Io prendo appunti. Sì, guarda, abbiamo un po' lasciato fuori i gioielli, per esempio. Naturalmente, ho pensato anche a prezzi abbordabili. Allora ho notato questo grande moltiplicarsi di gioielli che si ispirano ai gatti e ai cani. Ci sono sempre stati, però c'è un marchio in particolare che si chiama ve lo dico come si scrive, perché poi basta andare sul sito ruedes1000.it e lì c'è, tu ti puoi veramente scegliere il tuo, la tua razza di cane, oppure puoi mandare una fotografia e eventualmente te lo fanno su misura. Stessa cosa, sono in argento, magari dorato, quindi prezzi accessibili. E poi invece per chi vive a Milano, probabilmente lo conosce, è una piccola gioielleria vicino a Via Solferino, ma anche loro ormai attrezzatissimi per fare tutto online, www.giolinaangelo.com, loro te lo addirittura mandi la fotografia del tuo cane e loro fanno una piccola medaglietta di smalto e poi la monti come vuoi tu. Io naturalmente l'ho fatto, perché con il mio gatto preferito. Infatti, che è il mio gatto nero. Stavo dicendo coi gatti però, perché cioè, tu sei ecco, una fan dei gatti, sei dell'altra parrocchia, guarda, quella dei gatti. Un giorno quando andrò in pensione, che non ci andrò mai, temo, ma il cane si aggiungerà al mio popolo gattesco. E invece sui trucchi, anche questi li abbiamo un po' lasciati. Qui la grande, un po' la tendenza è quella, io non so se tu abbia mai avuto questo desiderio, io sì, di avere le lentiggini. Solo che le lentiggini o si hanno o non si hanno. Però adesso molte modelle se le proprio hanno lanciato questo trend. E se cercate su internet fake freckles, che poi si scrive FAKE e poi freckles FRECKLES, cioè finte lentiggini, trovate di tutto, dalle piccole strap che tu applichi e poi le togli. No, e ti restano, prego, tipo i trasferelli delle lentiggini. Esatto, no, le voglio subito, le vado a cercare. E poi naturalmente i tutorial su YouTube, con invece un metodo più tradizionale che dura anche molto meno, usando le matite, posizionandole nel modo corretto. Invece per chi ha molto a cuore i propri capelli, ovviamente è terrorizzato da quelli che gli americani chiamano i bad hair day, cioè i giorni in cui i capelli proprio non ti piacciono, che poi ci sono anche i good hair day. Dyson, questo produttore di elettrodomestici, ha lanciato un nuovo phon che si chiama Supersonic, e lo definiscono l'asciugacapelli intelligente, che capisce lui da solo, senza che tu schiacci i pulsanti, quando moderare il calore, che sappiamo è il grande nemico dei capelli, perché se ce n'è troppo esagerato per asciugarli, cioè lui capisce se il tuo capello è quasi asciutto, diminuisce automaticamente il calore. Così, io con troppo calore divento Diana Ross subito, io ho i capelli ricci. Poi ultima cosa, anche qui proprio una tendenza di quest'anno, i profumi in versione che escono contemporaneamente, le boccette sono uguali, magari con piccole variazioni di colore, per lei e per lui, him and her. E ve ne segnalo due in particolare molto carini, uno è quello di Zadig & Voltaire, che è questo marchio francese, molto francese, ma ce ne sono tantissimi altri, anche qui basta guardare su internet, è carino perché si può fare l'autoregalo e regalarlo anche alla persona, al proprio compagno. Romantico, mi piace, mi piace tanto, però io adesso nella pausa del GR vado online a cercare i trasferelli delle lenticchie, perché mi sono piaciuti da morire. C'era una ragazza americana che addirittura aveva sulla piattaforma Kickstarter, aveva chiesto, non so se ci sia mai riuscita, ma aveva chiesto appunto di aiutarla a fare questa sua startup dedicata alle fake freckles. Alle lentiggini trasferibili. Giulia ci dà sempre delle chicche e questa io l'adoro. Trasferelli per lentiggini è il mio regalo di questa settimana. Giulia, io ti ringrazio sempre tantissimo. Tu senti sempre queste tendenze così che ci fanno un po' sorridere, un po' ridere e certo, un po' voglia di comprare. Eh sì. E ricordiamo poi sempre per tutte le tasche, non ma è che vogliamo far spendere tanto. Sì, eh? No, davvero, mancano poi davvero pochi giorni, quindi andate su internet, insomma quest'anno è veramente, io non ho mai visto così tanta scelta come quest'anno, anche delle cose fatte a mano, quindi magari ci risentiamo un'ultimissima volta prima di Natale. Dai, per il last minute. Ok, fantastico. Prendi sempre nota. Va bene, buon pomeriggio. Grazie a Giulia Crivelli, che come sapete sentite su Radio 24 con la rassegna stampa, con le sue pillole d'inglese, ma anche la nostra super super esperta di moda nostra e del Sole 24 Ore. Allora, io ho già visto aggirarsi Gigi Donelli per la regia con il giornale radio delle 16, quindi gli diamo subito la linea. Io vado a cercare i tatuaggi temporanei delle lentiggini, perché mi piacciono tantissimo come idea. Ci ritroviamo più tardi, tra qualche minuto, dopo il giornale radio delle 16, perché abbiamo ancora un sacco di argomenti nel nostro sabato del villaggio di oggi. A tra poco. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour, Julie. Bonjour. Das aus antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino, di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da Wafer-Lago. Wafer-Lago, dolci emozioni italiane. Il sabato del villaggio. E siamo ancora insieme con la seconda ora del nostro sabato del villaggio. Ringrazio sempre per i messaggi al 349-238-6666, sia gli sms che i whatsapp. Un po' di messaggi di critiche, qualche messaggio di insulti, ma anche i messaggi che mi fanno stare bene, tipo Pietro che mi scrive: faccio pace con Radio 24 quando ci sono io al sabato. Grazie Pietro, grazie mille, sono le cose che ci fanno sorridere le giornate e danno un senso al fatto di passare il sabato pomeriggio in radio insieme agli ascoltatori. 349-238-6666, il numero per gli sms e per i whatsapp. C'è anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola, anche quello di Instagram, sempre @MartaCagnola. Ho appena twittato e instagrammato la foto con l'ospite che ci è venuto a trovare in questo sabato del villaggio. Ve lo dico già, con noi ci sarà Roberto Vecchioni e io sono molto molto molto contenta. Gli altri temi di questa seconda ora, parleremo di libri con Alessandra Tedesco, sempre qualche consiglio perché regalare i libri per Natale è una grande, grandissima soddisfazione, regalarli e anche riceverli. Con Maria Luisa Pezzali e Cristina Lazzati, qualche indicazione sulle tendenze di quello che succede in Italia in fatto di regali di Natale. Ci sono degli studi che dicono molto molto di noi, ma anche qualche consiglio per le vacanze da single. Anche questo è molto interessante. Prima però andiamo a sentire cos'è uscito questo fine settimana al cinema. Se mi seguite, Portobuglio rinascerà. Avremo il presepe vivente più bello da 2000 anni a questa parte. Faremo un presepe tutto nuovo, un presepe 2.0. Abbiamo un problema. Oh cazzo. Il bambinello. Ha fatto lo sviluppo. Sembra il bue. Andiamolo per la crocefissione. Però qui i bambini non ne nascono più. Facciamolo. Non guardate me. Gli amici arabi ci danno il bambino. Mamma mia! Il bambino è vostro. A una condizione. Faremo il nananà. Non ho capito. Ma che è il Ramadan? C'è chi lo chiama così. Sti cazzi. Aldo, non dire così. Sti cazzi. Dai ragazzi, che un po' di dieta fa bene. Ed è il momento dei film al cinema questo fine settimana. Cominciamo con questo Non c'è più religione. Un bel cast, un bel regista, ma chiediamo subito al nostro esperto se vale la pena andarlo a vedere, magari andarlo a vedere in famiglia. Ciao Franco D'Assisti. Ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, un film che entra sicuramente nel novero non dei cinepanettoni, perché non è un cinepanettone, è una commedia brillante, commedia leggera su un tema divertente e di stretta attualità, quella delle religioni che cozzano un po' tra di loro e cominciano un po' a pretendere sempre qualcosa di chi ti sta di fianco invece che tentare un rispetto totale di chi ti sta di fianco, che sarebbe forse anche la strada meno faticosa. Però tutto questo con tante risate. La storia di un paesino immaginario, Portobuio, dove non nascono bambini da un pezzo, ma purtroppo il bambinello del presepe vivente, che da anni era sempre lo stesso, adesso è diventato grandicello, ha i brufoli e la barba, quindi insomma bisogna sostituirlo. E allora si comincia a cercare, chissà che non si finisca finalmente a farlo medio orientare questo bambinello. Tutto questo appunto a suon di sketch legati all'etnia e alla religione, senza mai scadere nel troppo becero, con un cast capitanato da Claudio Bisio e Alessandro Gassman, che saranno tra l'altro fra poco ospiti alla Rosa Purpurea, ma anche con tante altre facce che vanno da Giovanni Esposito a Roberto Erlizka, da Giovanni Cacioppo a Massimo De Lorenzo. Per un divertimento da famiglia famiglie, come hai detto giustamente tu, che chiaramente non aggiunge, non toglie niente in termini cinematografici, ma insomma risulta un film gradevole, uno spettacolo gradevole che si vede col sorriso sulle labbra. Invece vedo un altro titolo molto festaiolo, La festa prima delle feste. Com'è, Franco? La festa prima delle feste è veramente un cinepanettone all'americana, ecco, questo potremmo tranquillamente dirlo, perché le volgarità qui si sprecano in maniera dozzinale. Io l'ho ribattezzato una sorta di notte da leoni in ufficio, nel senso che il clima è chiaramente quello, cioè della festa che sfugge dalle mani, dal controllo di chi l'ha organizzata. Tutto si svolge in un ufficio, una filiale di New York che sta per essere chiusa, rischia la chiusura, e allora il manager, un po' così allampanato della situazione, cerca di trovare una soluzione invitando un possibile acquirente e mettendolo di fronte a questa festa grandiosa, che è talmente grandiosa che per un certo punto, come dicevo, sfugge assolutamente dal controllo, e siamo nel classico hangover il giorno dopo, gente mezza ubriaca, mezza nuda, che circola per questo ufficio, poltrone sfasciate, eccetera eccetera. Ci sarebbe da divertirsi se si ha appunto un gusto, come dire, della battuta un po' grossolana, se non fosse che tutte queste cose le abbiamo viste a bizzeffe, appunto, dalla saga di Notte da Leoni in poi. Ormai questo è diventato un cliché della commedia americana. Qui non sfuggono una Jennifer Aniston nei suoi panni, cioè della donna manager cattiva, un po' crudele, eccetera, Olivia Moon, Jason Bateman, Jamie Chung, nomi importanti, ma che però non riescono a far uscire il film da uno stereotipo che poi alla fine risulta abbastanza stucchevole. Attesissimo invece il film di un regista molto molto amato, che è Xavier Dolan. Lo andiamo a vedere quest'ultimo film di Dolan? Guarda, lo andiamo a vedere, perché Xavier Dolan si va a vedere a prescindere, è sicuramente uno dei registi in questo momento che esprime il maggior grado proprio di qualità cinematografica nel mondo, lo sappiamo, l'abbiamo detto mille volte, è un enfant prodige, 27 anni, già 6 film all'attivo, tra l'altro una maratona sui film di Dolan notturna si è tenuta in questa settimana a Milano, con esiti anche abbastanza interessanti, con tante persone che hanno resistito fino all'alba per vedere tutti i suoi film. Questo è l'ultimo in ordine di tempo, tratto da una pièce teatrale di Lagarce, e racconta del ritorno a casa, in una casa di una cittadina di campagna, di un giovane che era partito via tanti anni prima, ha fatto successo, è diventato un drammaturgo molto riconosciuto e torna per svelare un grande segreto alla propria famiglia, che è formata da gente come Léa Seydoux, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Nathalie Baillet. Insomma, come dire, c'è il confronto di Xavier Dolan con un parterre de rois di attori che fanno parte dello star system francese e anche internazionale, quindi sicuramente questa per gli amanti di Dolan è la novità. Per il resto c'è Dolan con la sua macchina da presa, con la sua capacità di scavare dentro i personaggi, con la quasi una violenza nel tirare fuori i loro sentimenti, che sono quello che ce l'ha fatto amare. Grazie Franco, l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18, dunque con La Rosa Purpurea. Vi aspetto tutti alle 18 qui alla Rosa Purpurea su Radio 24. Alessandro Gasman, Claudio Bisio, restate con noi. Ciao Marta. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Il sabato del villaggio. Franco D'Assisti ha elencato solo maschi, faglielo notare. No, dai, mi sa che almeno ha citato Angela Finocchiaro. Non c'è più religione, mischiando i nomi delle attrici, perché almeno lei c'era nel film, ma gli altri film sono tutti molto molto molto molto al maschile, questo Franco purtroppo non è che ha censurato le donne, non ce n'è proprio. E poi Rossana, ascoltatrice che ha rinunciato allo shopping del sabato per sentire Il sabato del villaggio, ciao Rossana, almeno il tuo nome non lo sto sbagliando. Una non stop con Grace e Frankie su Netflix, tornando alle serie TV. Grace and Frankie mi piace da morire, è quella delle due signore della terza età, perché non sono tanto di mezza età, di terza età, che vengono mollate dai mariti che si vogliono sposare tra loro. Beh, mi sono divertita come una pazza, hai ragione Rossana, Grace and Frankie è un'altra serie assolutamente da consigliare. Adesso però sono le 16 e quasi 17 minuti e come sempre al sabato del villaggio a quest'ora è il momento di aprire il capitolo, appunto, nomen, aprire il capitolo dei libri. I Io ho già paura. Ho un po' l'impressione che stiamo parlando di thriller, di libri di paura. Beh, sarà sicuramente il primo consiglio della nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ebbene sì, Marta, perché lo sai che i thriller piacciono tantissimo. Quindi in vista del Natale consigliamo un po' di libri anche agli appassionati di thriller. Sotto l'albero un po' di paura. Ce ne vuole, Allora, quella che sentivate infatti è la musica del book trailer dell'ultimo romanzo di Donato Carrisi, che si intitola Il maestro delle ombre, pubblicato da Lunganesi. Già così fa paura. No, devo dire che è un libro abbastanza ansiogeno da questo punto di vista. È un nuovo romanzo con protagonisti il penitenziere Marcus, quello del Tribunale delle Anime, e Sandra Vega, che è una fotorivelatrice della scientifica. Che cosa fa? Lei fotografa la scena dei delitti e poi, analizzandola bene con Marcus, trovano delle anomalie. Partendo da queste anomalie riescono a risalire, diciamo, al colpevole, insomma riescono a risolvere il caso. Ho detto che questo è un thriller abbastanza ansiogeno perché tutto parte da una bolla papale del 1521 di Papa Leone X, che scrisse: Roma non deve mai, ripetuto per 3 volte, rimanere al buio. E invece che cosa succede nel thriller di Donato Carrisi, Il maestro delle ombre? Beh, che Roma rimane al buio per un blackout. Allora, ci sono i vari capitoli che iniziano: mancano 9 ore e 38 minuti al tramonto, mancano 5 ore da... Ah, che ansia! Succedono delle cose. Mi viene ansia solo sentirmelo raccontare. E infatti io, quando l'ho intervistato, ho detto: vi consiglio di leggerlo con una boccetta di ansiolitico, non diciamo la marca. Ognuno ha il suo preferito. Ognuno ha il suo preferito, diciamo. Quindi per gli appassionati di thriller, Il maestro delle ombre, Donato Carrisi, un nome, una garanzia. Per chi invece non vuole brividi? Per chi non vuole brividi, allora ho scelto questo romanzo ironico e direi quasi grottesco. Si intitola Lo schiavista, scritto dall'afroamericano Paul Bitti, pubblicato in Italia da Fazzi. Allora, è un romanzo divertente, veramente ironico, grottesco, per parlare proprio del razzismo contro i neri negli Stati Uniti. Allora, cosa ha scritto Paul Bitti? Praticamente si è inventato un personaggio, un nero, che da ragazzino viene sottoposto a degli strani esperimenti sociologici da parte del padre, esperimenti sulla razza. Poi a un certo punto il padre muore e, siccome praticamente il ghetto vicino a Los Angeles dove lui vive, gli altri vivono, viene cancellato dalle mappe, per far ritornare l'attenzione su questo luogo, ripristina la schiavitù. Allora lui nero ripristina la schiavitù e per questo finisce davanti alla Corte Suprema. Insomma, ne succedono di tutti i colori. Ti leggo l'incipit perché secondo me è veramente sintomatico del tono ironico e grottesco. So che detto da un nero è difficile da credere, ma non ho mai rubato niente. Questo è l'incipit. È veramente un modo, secondo me, intelligente e divertente per capire quanto il razzismo e la segregazione razziale siano delle cose non stupide. Di più. Allora, ancora consigli. Vedo che hai davanti a te un po' di libri. Sì, allora, il famoso libro alla radio. Allora, questo lo consiglio alle amiche. Avete da fare un regalo a Natale per un'amica? Parlo di amiche donne in questo caso, effettivamente. E allora vi consiglio il libro Breve storia di due amiche per sempre di Francesca Del Rosso, pubblicato da Mondadori. Io lo dichiaro sempre, Francesca Del Rosso è una mia amica, quindi prendete anche quello mia, che dico. Ciao Francesca. Quello che dico con le molle, perché capisco che uno dice: ah, ma siete amiche, allora ne parli bene. No, non ve ne parlo né bene né male, vi dico solo di che cosa tratta. Racconta la storia di Tessa e Clara, sono amiche veramente strette fin dall'infanzia, dall'adolescenza più che altro. Poi a un certo punto, per un fatto che non vi posso dire quale, ognuna va per la sua strada. A un certo punto Tessa, che sembra apparentemente la più debole fra le due, viene tradita dal marito, e in quel momento del tradimento ha il desiderio di ritrovare la vecchia amica Clara. Come, perché, in che modo si troveranno? Dovete leggere Storia di due amiche per sempre, perché non ve lo posso dire. Bello, non è un bello, giallo, però, bello da regalare alle amiche e tra amiche. Assolutamente sì. Una bella copertina verde, bianca e rossa. Un italiano vero. Mi viene in mente la canzone di Toto Cutugno. Com'era quella? Non era Lasciatemi un italiano. Lasciatemi cantare. Un italiano vero. Un italiano vero. Allora era, vedi, allora mi ricordo bene. Un italiano vero di Giuseppe Antonelli, pubblicato da Rizzoli, La lingua in cui viviamo. Libro consigliato. dedicato a tutti quelli che amano la lingua italiana e a tutti quelli che dicono il vocabolario è il mio libro preferito, come me per esempio. Anche a me piace tanto. Allora, che cos'è questo? Vabbè, Antonelli è un linguista veramente bravissimo. Devo dire che in questo caso con grande anche leggerezza e ironia ci dice come l'italiano perfetto non esiste. Cambia continuamente, lo sappiamo, la lingua è viva, ma in particolare analizza come i social stanno modificando la grammatica. Per esempio, come gli hashtag, quali siano gli hashtag più diffusi, no? Su Twitter, ma anche su Facebook, e come si stia sgrammatizzando in qualche modo la lingua italiana attraverso i social. E poi è bello perché lui nella dedica del libro, vabbè, la dedica ad alcune persone, poi dice, lo dedico anche per chi dice chiocciola e pensa ancora alle lumache. Mi piace, mi piace. Bellissimo, lo trovo bellissimo, istruttivo e divertente, un italiano vero, Giuseppe Antonelli. Poi utile per tutti, per noi che con la lingua lavoriamo, ma non solo. Bambini, beh, insomma, si sta avvicinando il Natale, i bambini questa volta ho fatto una scelta precisa, una scelta di un libro importante, un libro istruttivo e secondo me in questo momento molto, forse determinante, ecco, per molti bambini. Allora, il libro si intitola Casca il mondo, l'ha scritto Nadia Terranova ed è pubblicato da Mondadori. Allora, il protagonista è Oscar, un bambino che non parla più dal giorno in cui il terremoto gli ha distrutto la casa. A un certo punto incontro Golan, che è un altro bambino, che è arrivato su una barca per scappare da una guerra, quindi in pratica sostanzialmente si parla di traumi, il terremoto lo sappiamo e i migranti anche, la guerra, che i bambini stanno apprendendo ormai negli ultimi mesi, negli ultimi anni attraverso la televisione. Questo libro in modo delicato ma intelligente fa avvicinare i bambini a questi temi e mette soprattutto, sottolinea l'importanza della condivisione, quanto è importante condividere le paure e purtroppo anche i traumi della vita per poter andare avanti. Questo è un libro che è consigliato dai 9 anni in su, chiaramente, perché insomma ci sono delle cose che i bambini più piccoli non capirebbero, certo. Però lo consiglio veramente a tutti i genitori che vogliono trovare una guida, un appoggio per spiegare ai bambini che cosa sta accadendo nel mondo. Ottima, ottima scelta. Ancora 2 minuti per l'ultimo consiglio? Guarda, l'ultimo consiglio in questo periodo, lo sai, stiamo facendo il consiglio sempre low cost. Sì, guarda, fammelo dire, la scorsa settimana un ascoltatore mi ha scritto molto arrabbiato: ah, parlate di regali di Natale come se la gente avesse molti soldi da spendere. Noi parliamo di regali di Natale per tutte le tasche. Diciamo che quando un libro è molto costoso, con un'edizione molto raffinata, lo specifichiamo altrimenti sempre. I libri, insomma, sappiamo che non sono regali estremamente costosi. Però tu hai anche qualche consiglio, sì, più proprio adatto a chi non vuole o non può spendere tanto, ma comunque ha voglia di regalare i libri, perché non dimentichiamo mai che comunque un libro è qualcosa che ti accompagna per diversi giorni. Io faccio sempre l'esempio: 15 euro pizza e birra e te le sei pappate in mezz'ora. 15 euro un libro magari ti accompagna per una decina di giorni e 2 settimane, ma 15 euro pizza e birra a Milano, lo diciamo per chi ci ascolta da altre regioni che pensa che non sappiamo far di conto a Milano. No, sappiamo far di conto. Allora, il libro low cost di questa settimana è uno dei grandi classici, Il buio oltre la siepe di Harper Lee, nell'edizione economica Feltrinelli. Tra l'altro Harper Lee, la scrittrice, è morta quest'anno nel 2016. Il buio oltre la siepe era stato praticamente il suo primo e unico romanzo, che aveva vinto il Pulitzer nel 1960. E a proposito, prima parlavamo dello schiavista, no? Del razzismo dei neri. È un libro che racconta la storia di un avvocato bianco che difende un nero e che all'epoca naturalmente scatenò uno scandalo. Quest'anno è uscito in Italia una specie di sequel, prequel di quel buio oltre la siepe, Va e metti una sentinella. E però secondo me si può tranquillamente partire da Il buio oltre la siepe, che rimane un capolavoro, è in edizione economica, quindi decisamente low cost. Grazie Alessandra, ultimo consiglio, quello del cacciatore di libri? Eh beh, il cacciatore di libri stasera puntatone alle 22, perché ci sono Carlos Ruiz Zafón, quella che aveva scritto L'ombra del vento, sai, il grande bestseller, e poi Alessia Gazzola, che ci parla del suo personaggio seriale Alice Allevi, che ormai anche con la fiction TV è diventata veramente famosa, famosa, famosa, e poi il podcast. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Baci. Il sabato del villaggio. sempre i vostri messaggi al 349-238-6666. Sono contenta degli ascoltatori che scrivono che sono contenti dei consigli dei libri. A me, se solo c'è un pacchetto in più con un libro sotto l'albero da parte di qualcuno, fa piacere, perché è bello entrare in mondi nuovi leggendo. Lo so, sembra retorico, ma sono sincera. Secondo me un libro è un regalo pieno pieno pienissimo d'amore. E poi c'è Luca, l'ho perso, dove sei? Eccolo qua. Ecco, Luca, cara Marta, Francesca Del Rosso è una grandissima, appunto, buona domenica, un abbraccio, Luca, hai ragione, Francesca Del Rosso è una grandissima, ciao Francesca, non dimentichiamoci di Alessandro Milan, no che non ci dimentichiamo di Alessandro Milan, però Francesca Del Rosso è una grandissima, hai ragione. E poi ancora, le case editrici dovrebbero ringraziare Alessandra, è bravissima. Certo, Alessandra è veramente bravissima, e vi ricordo appunto ancora l'appuntamento col cacciatore di libri, perché è appunto mi piace come ci racconta i libri, come ci fa venire voglia di ascoltarli. E qualcuno chiede, ma Pagliarini? Ci avete scoperto, questa settimana non c'era Enrico Pagliarini. Per una volta ho lasciato Enrico Pagliarini in vacanza, cioè vi dico la verità, anche quando lui è in ferie, poverino, un quarto d'ora per fare il collegamento del sabato del villaggio lo trova sempre, perché io sono veramente una sfruttatrice anche quando in ferie lo chiamo. Questa volta però era proprio fisicamente in viaggio, quindi ho detto vabbè Enrico, dai, per una settimana ti lasciamo libero. Però ovviamente vi ricordo l'appuntamento con 2024, anche col podcast di 2024, così potete ascoltare anche Enrico Pagliarini questo fine settimana. Ma tra le cose che sono successe tra ieri e oggi, a parte beh insomma il malore di Albano, che purtroppo ha avuto un infarto, è stato operato, però dice che adesso va bene, quindi insomma un abbraccio a Albano, ci ha fatto un po' preoccupare. Tutte le indiscrezioni su Sanremo, l'ho citato poco fa parlando con il nostro gastronauta Davide Paolini, perché lunedì sera verranno svelati i nomi dei big. Io domani mattina già parto per Sanremo, perché così mi preparo un po' in anticipo, sono pronta per andare a sentire chi sarà scelto, chi è stato scelto per partecipare al festival a febbraio. Però ieri già ci sono state le indiscrezioni. Cosa è successo? Che gli Statuto, ve li ricordate quelli che avevano vinto, che avevano partecipato a Sanremo con la canzone Abbiamo vinto il Festival di Sanremo, hanno detto siamo stati esclusi, e sulla loro pagina di Facebook hanno spoilerato, come dicono gli appassionati, come diciamo noi appassionati di serie TV, una presunta lista di big. Poi hanno fatto un po' marcia indietro, in realtà hanno detto no, non è che siamo stati esclusi, non ci hanno preso in considerazione perché non abbiamo mandato la canzone nei termini, quindi insomma era un po' diversa. E poi hanno detto la lista è più o meno quella che si trova in rete adesso. Però questa mattina tanti giornali, sentite il rumore delle pagine che ho strappato e che mi porterò a Sanremo perché così studio, hanno un po' ripreso questo elenco. Allora abbiamo qui il Messaggero, musica e dispetti eco Sanremo, questo invece è il Quotidiano Nazionale, in gara Fiorella, Masini, Renga e Ron, Sanremo la lista corre sul web. E poi questo è il Giornale, gli Statuto già scartati svelano i big di Sanremo. Insomma, sui giornali c'è questa lista, in rete c'è questa lista. Io preferisco un po' la sorpresa, quindi se volete le andate a cercare, io non ve li voglio svelare perché chissà sono veri, sono falsi, però io preferisco così che tutto rimanga un po' nel mistero. Tra poco ci sarà con noi un grande protagonista del Sanremo di qualche anno fa, Roberto Vecchioni. Io sono molto contenta di averlo con noi al Sabato del Villaggio. Prima dobbiamo aprire la pagina dei consumi, però facciamo così, apriamola proprio con il Roberto Vecchioni di Sanremo di qualche anno fa. Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. E rimaniamo dunque in tema di consumi con il Natale. Beh, insomma, è uno dei periodi più importanti, forse più importante dell'anno. Non possiamo non parlarne nello spazio dei consumi e delle nuove tendenze con la nostra Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Allora, come sta andando? Che cosa ci puoi dire di questo periodo natalizio di quest'anno? Allora, ho iniziato a raccogliere un po' di dati in questo periodo. Insomma, nelle redazioni arrivano decine e decine di report sul Natale, sondaggi, consumi, eccetera eccetera. Allora, ho preso un po' le note più curiose che ho trovato qua e là. Innanzitutto, albero batte presepe, Marta. Perché per le decorazioni appunto natalizie, ci dice una ricerca Confesercenti SVG, più italiani fanno l'albero. Solo 4 italiani su 10 fanno il presepe, l'albero invece sarà presente in circa 7 case su 10, quindi insomma tante. Assolutamente. Tu albero o presepe? Io albero. Io alberino e presepinino. Anch'io in realtà ho un presepino, insomma, una cosa di presenza così. Sì, anche non l'albero lo mio è molto piccolo. No, invece io l'albero. Io l'albero piccolo perché non ho l'angolo giusto, allora l'ho messo su un mobile, però carino. E poi c'è anche chi ha indagato gli ospiti meno graditi. In questo caso il sito di vendite online vanprivé.it, il parente criticone è quello mal sopportato in assoluto, indicato dal 38% degli intervistati. Poi i vecchi amici di famiglia, il 36% li indica come ospiti sgraditi, e la suocera, vabbè, qui andiamo proprio sui fondamentali, sì, 25%. Sì. Invece una ricerca di eBay ci dice che il budget per i regali, ecco la buona notizia, quest'anno è aumentato, più 200 euro circa, e che anche per i millennials, cioè i giovani tra i 16 e i 34 anni, il Natale ideale è quello tradizionale, quello in famiglia, indicato da un giovane su 3. Alla fine, insomma, tutta questa rivoluzione anche nei giovani non c'è. Beh, devo dire che forse alla fine il Natale ci riporta tutti a qualcosa di tradizionale. Bene. E questa ricerca, tra l'altro, ci racconta molte altre curiosità, e allora ce le facciamo dire da Irina Pavlova, che è la responsabile comunicazione di eBay. Buon pomeriggio, Irina. Buon pomeriggio a tutti, grazie. È bellissimo questo tema. Tra l'altro l'albero di Natale è anche, sempre anche dalla nostra ricerca è emerso, lo 7 italiani su 10 non ne possono fare a meno. Infatti anche su eBay, quando vediamo proprio in questo periodo le decorazioni natalizie, vi dico qua una chicca molto interessante: proiettore luci laser per esterno. Questo l'ho visto anch'io e l'ho visto dal vivo su una casa e ho detto accidenti. Questo è uno degli oggetti dell'anno, sì. Questo tutto sommato. Nella vostra ricerca c'è un'utilissima classifica, tra l'altro sia in termini assoluti che divisa per fasce d'età, quindi quasi insomma una nota per chi è a caccia di idee, che per chi vuole andare sul sicuro per i regali più graditi. Assolutamente, i regali più graditi, come ormai da consuetudine, ogni anno al primo posto un viaggio, tutti vorrebbero un viaggio, al secondo non può mancare un capo di abbigliamento, scarpe, accessori, al terzo posto dipende dall'età. Per esempio gadget high tech non possono mancare per la generazione X e millennial, mentre i libri sono molto ben accettati dalle persone di età pensionata. Detto questo, abbiamo visto anche alcune peculiarità divise per l'età, per esempio vino, gastronomia, sempre per i boomer da 55 a 64 anni, le scarpe da ginnastica, elettrodomestici, per i millennial un po' più maturi, quindi dai 25 ai 34 anni, e tutta l'apparecchiatura per la palestra, è qualcosa che vogliono tantissimo le persone della generazione X. Tra l'altro, allora, io ho un po', te lo dico Irina, litigato con gli ascoltatori in questo periodo, lo dico sorridendo ovviamente, perché da 2 settimane io mi occupo di regali di Natale e arrivano i messaggi di alcuni ascoltatori, pochini per la verità, inferociti: ma come, stai già parlando di Natale, ma non è ancora il momento? E invece anche la vostra ricerca dice che per i regali ci vuole tempo. Assolutamente, per il regalo pensato, grazie per aver dato a me questo assist, in realtà la ricerca aveva iniziato una cosa molto interessante, ovvero che non è il valore quello che conta, è vero che quest'anno più 8% la disponibilità di spesa media per l'acquisto dei regali, ma circa un italiano su due desidera regali che riflettono le reali passioni della persona, quindi non vuole quelli di valore o di tendenza, e molti cominciano già a fare il regalo di Natale a novembre. Probabilmente tutti ci ricordiamo questo boom del Black Friday che ha preso sopravvento quest'anno più che mai. Noi in eBay ovviamente siamo precursori di Black Friday da diversi anni, ma vediamo che è esploso il fenomeno proprio quest'anno. Tra l'altro, per concludere, ho letto un'altra cosa molto interessante, che a messa andrà il 52% degli intervistati, ovviamente i più adulti, i più anziani, tra virgolette, ma anche il 47% dei millennial, cioè tra i 16 e i 34 anni. Quindi la messa di Natale è ancora importante. Tradizione. Quindi insomma, consumi sì, ma anche tradizione. Poi mi piace molto questa cosa del regalo pensato, perché non stiamo spingendo nessuno a spendere soldi, ma a pensare a qualcosa di bello per le persone a cui vogliamo bene. Sì, ci si può mettere anche il sabato pomeriggio, insomma, un po' di do it yourself, un'altra tendenza dell'anno, e magari fare qualcosa, insomma, proprio di personalizzato. Grazie a Irina Pavlova, eBay, insomma, poi faremo anche magari qualche consuntivo, ci direte com'è andato questo Natale con il vostro bilancio. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buoni acquisti, buon Natale. Grazie, auguri. Maria Luisa, adesso questo è il momento delle chicche di Cristina Lazzati, chissà se ce l'abbiamo in collegamento, noi la evochiamo. Ciao Cristina. Ciao a tutti. Eccola qua. Qui. Allora Cristina, cosa ci hai portato in questo sabato del villaggio? Allora, se gli ascoltatori si lamentano che stiamo parlando un po' troppo presto di Natale, bene, allora si lamenteranno ancora di più, perché io vi parlo di dove andare a Capodanno. Ah, beh, ma anche quello bisogna sempre avanti, bisogna Cristina. Pensarci in tempo. Sì, perché di fatto, come ben sapete, per risparmiare sulle vacanze, il last minute ormai non esiste più, nel senso che tanto non c'è verso, man mano che ci si avvicina alla data i prezzi aumentano, i posti spariscono e quindi è più difficile. Allora ho fatto un po' una ricerca dividendo un po' per tipologie di vacanza. Cominciamo con le famiglie. Allora, famiglie quest'anno dovrebbero andare, secondo un po' le varie ricerche che stanno facendo e le prenotazioni che stanno ricevendo le varie agenzie, nei parchi divertimenti. Ve ne cito un paio: Rainbow Magic Land e Fiabilandia, che rimangono aperti dopo la mezzanotte. Gardaland chiude un po' prima, ma comunque fa festa, diciamo che per i più piccoli a un certo punto comunque sappiamo tutti si addormentano un po' a prescindere dai botti di mezzanotte. Chi vuole invece tenere in piedi i bambini tutta la notte per godersi non solo la nottata ma anche la spesa, Disneyland Paris rimane aperto all night long. E poi invece se uno vuole spostarsi fuori, come dire, dall'Europa, c'è sempre, o comunque spostarsi molto più a nord, beh, rimane sempre il villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi, in Finlandia. Chi invece è stato ispirato, i bambini sono ispirati da Oceania, che esce il 22 dicembre anche in Italia ed è appena uscito negli Stati Uniti, beh, allora non rimane che proprio l'Oceania, volendo addirittura si può andare a fare Capodanno nelle isole Samoa e 25 ore dopo, spostandosi solo di 70 km, andare nella Samoa americana e rifare Capodanno. Perché lì, a parte la distanza, siccome si fa il giro al contrario, di fatto con 70 km ti fai due Capodanni in uno. Mentre invece se ci spostiamo sui giovani, le mete di montagna vanno tantissimo e molti si concentreranno sulle valli di Tures e Aurina, se pensiamo al Trentino Alto Adige, dove c'è anche un parco avventura che si chiama Tamarix Family, dove ci si può divertire con tubing, slittini, gommoni e quant'altro. O invece se preferiscono le Alpi, pare che sia consigliatissimo Sestriere, perché è tutto un divertimento notturno, locali, discoteche e quant'altro. Mi raccomando, tutto a piedi e se per caso vedete un po' troppo, ancora di più a piedi. Verissimo, tanto poi fresco, verissimo. Sì, se invece si vogliono andare in Europa, destinazione numero uno Praga e ovviamente Berlino e Barcellona, che, come dire, credo che più o meno tutti siamo stati millennials anche noi, anche se non ci chiamavano così, e ci siamo stati molto molto volentieri. Per chi rimane in Italia, città universitaria per eccellenza Bologna, oppure la sempre accogliente Roma, che se non altro ha sempre un clima che risparmia tutti. Famiglie e ragazzi, ma non dimentichiamoci i single. Per i single c'è un mondo che io ho scoperto, non essendo single, sono andata a leggermi. È nata da poco una nuova agenzia che si chiama Travel Single, ce ne sono altre, per cui non spaventatevi, non ce n'è una sola, quindi potete cercare digitando viaggi e single, ve ne escono di molte, e questi hanno un po' di tutto, dai weekend ai viaggi. Promettono di dividervi in gruppi equi, uomini e donne di età simile, sono divisi in over 45, per gli over 55 non garantiscono però il numero uguale, temo siano più donne che uomini in linea di massima, però questo non è specificato sul sito, per cui tanto vale iscrivervi e andare. Vedevo che a Napoli organizzano una tombolata sexy e quasi quasi io mi infiltro solo per capire cosa succede. Ma non era lo strip poker? Non lo so, la tombolata sexy a Napoli secondo me può riservare qualcosa di divertente. Poi me la racconti però, Marta. Mi infiltro. Grazie Cristina per le tue chicche anche per questo sabato, ci troviamo al prossimo sabato del villaggio. Ciao a tutti. Grazie a Cristina Lazzati. Luisa, l'appuntamento con te domani alle 22, essere a avere come sempre. Ciao Luisa. Marta. Il sabato del villaggio. In fondo lo sapevo già, dal primo istante che l'ho vista, dalla felicità, perché la vita è un grande artista. Mettivi un sorriso, un piccolo sorriso al giorno, tienili, dicevo, conservali per quando torno. Lo sapevo già dal cuore in gola, a sentir la sua prima parola, a vederla su una corda al vento, traballare dentro un cielo spento. Lettera d'amore, alba che non ha tramonto, ma è un tramonto all'alba di due colori che confondo. Ce l'ho avuto sempre addosso questo lungo addio, questo lasciarla indietro e non lasciarla mai. Un'altalena a dondolare come un pendolo tra quei due attimi che siamo io e lei. Imitavamo Dylan Dog o parlavamo di Marx e Hegel. Sono molto contenta di avere questo pomeriggio qui con me. Io non ho aggettivi, quindi non avendo aggettivi, non avendo sostantivi, non avendo parole, ma solo una grande gioia, lo presento direttamente. Buon pomeriggio a Roberto Vecchioni. Grazie di tutti questi preamboli addirittura. Ma professore, subito ti dico che non ho aggettivi, sostantivi, subito bocciata. Abbiamo qualche verbo ce l'abbiamo. Qualche verbo ce l'abbiamo ancora. Allora, io ho appena aperto un cofanetto che ho in mano, La vita che si ama, storie di felicità, il libro e il CD, canzoni per i figli. Felicità e figli, iniziano entrambe con la F e hanno molto a che vedere l'una con l'altra, perché i figli danno la felicità, ma anche perché ai figli bisogna dare qualche istruzione per l'uso. Per sì, la felicità. Sì, le due cose sono complicatissime tutte e due, scomodissime tutte e due. Cioè fare il padre è scomodissimo, dare la felicità è quasi impossibile, sono cose quasi impossibili. Però nella costruzione, diciamo così, fantastica e commovente, spirituale, emozionale di un libro o di un disco si può fare. Cioè è quasi un tocco da fata turchina, ecco, se vogliamo. Uno ci tenta e prova a dire ai figli in 13 lettere: io ho provato la felicità soprattutto in questi momenti, vedete un po' voi se ne trovate di simili nella vostra vita. E non sono momenti, guarda, di grandi successi, di grandi avventure, di grandi storie. Sono momenti molto piccoli, anche magari particolari, di tutti i giorni, che possono capitare a tutti. Anche uscire da un attimo sbagliato, oppure entrare in un attimo che ti funziona benissimo. Sono aneddoti questi raccontati nel libro, che tra l'altro è già fuori da parecchio tempo. La novità è che adesso ci ho inserito dentro il disco, cioè il CD con tutte le canzoni raccontate nel libro, perché ci dovevano essere, perché il libro è dedicato ai figli e le canzoni sono dedicate ai figli. Però queste canzoni sono state scritte nel corso degli anni, quindi la riflessione ti ha sempre accompagnato, e la voglia di raccontare qualcosa ai ragazzi anche in musica. Sì, queste sono emozioni più che riflessioni. Beh, hai ragione tu, però sono riflessioni in certi momenti, perché qui si è a nudo proprio, eh. Ci sono momenti in cui si ammala un figlio, momenti in cui scappa un figlio, momenti in cui torna, momenti in cui si innamora un figlio o si sposa una figlia, che è uno dei momenti per i padri peggiore che possa esistere. Sei stato un padre apprensivo, perché molto. Da quest'uomo sembrerebbe di sì. Molto, molto è vero quello che c'è in quest'uomo. Ho avuto figli che a turno uscivano e tornavano tardissimo. D'altronde l'ho fatto anch'io da ragazzo. Mi ricordo la famosa regola, mia mamma che diceva: torna per l'una. E io facevo le due e dicevo: beh, a questo punto, anche se torna alle quattro, è lo stesso, no? Punizione ce l'avrò lo stesso. No, io punizioni non ne ho date in questo senso, però stavo in piedi a fumare ad aspettarli. E da nonno? Da nonno è un'altra cosa. Il nonno ama, direi, con una intensità se non pari simile a quella del papà, però ha molto più libertà. Certe cose diseducative il nonno questa l'aspettavo, il nonno un po' deve fare le cose un po' trasgressive. Guai ai nonni che non fanno cose diseducative. Ai nonni che si... No, veramente, con le mie bambine, perché ho tutte nipotine io, dolci a quantità, si va dove si vuole, tutto quello che non fanno a casa, insomma, praticamente. Infatti ci stanno molto bene con me. Devo dire che dicono: dov'è il nonno? Tutte le volte, dov'è il nonno quando arriva il nonno? Questa è una soddisfazione, però. Le tue canzoni spesso fanno parte dei nostri ricordi, fanno parte della nostra vita e fanno parte anche delle nostre vite familiari. Io ti posso dire che uno dei ricordi più belli che ho di mia mamma, che è mancata molti anni fa, era che da piccola mi cantava Samarcanda. Quindi per me, mia madre è sempre legata a questa canzone. Che impressione ti fa il fatto che tante tue canzoni facciano parte non solo dell'immaginario, della cultura italiana, ma anche delle vite di tante persone? Penso che sia una cosa bellissima che si trasmetta passione, amore o anche semplicemente tenerezza con un canto, con una canzone. E in questo sono assolutamente popolare, cioè è inutile trasmettere canzoni cerebrali e cerebrotiche, bisogna comunicare ai bambini e ai ragazzi canzoni che abbiano dentro qualche cosa di buono, di bello, che imparino, ma che siano anche orecchiabili, che vadano per la loro, che i bambini possano ripetere, perché un canto ti ricorda, passa da un'altra parte e ti ricorda una stanza, ti ricorda un abbraccio, ti ricorda un giorno che è nato il sole, ti ricorda un giocattolo. Il canto si accoppia alle cose più belle che hai avuto da bambino nella vita. Voglio fare una domanda, dopo aver parlato di Massimi Sistemi ti faccio una domanda veramente che sembra un po' priva di poesia, però ha un suo senso. Sì. Il tuo cofanetto costa 22 euro. Sì, in un periodo molto. In cui sotto Natale si fanno le super edizioni da 90 euro, sempre 79,90, 99,90. Sì, tu intanto hai fatto la cifra tonda. E poi costa poco. È una scelta? Sì, l'ho scelto io. Adesso non si possono dire queste cose, perché la gente pensa, tutti pensano sempre così, lo sta facendo per farsi propaganda. Certo che mi faccio propaganda, perché vorrei che tutti lo comprassero, ma voglio anche che sia chiaro questo, che non volevo guadagnarci di più sopra, perché il libro è già uscito ad aprile, e allora il disco è certo che è nuovo, e ho pensato che con 3 euro in più rispetto al libro si potesse avere il disco. E quindi questo, come hai ben capito, significa che io di royalties ne becco pochissimo. Ma è anche giusto che sia così. Dove vado? Perché devo guadagnarci su? Poi anche un'altra cosa voglio dire: posso, perché sono in una radio bella, ascoltata e sentita. sono un po' stanco di gente che su Facebook, su Twitter parla a sproposito non sapendo come stanno le cose. Cosa credete, che uno viva soltanto per ammucchiare? Ma io non l'ho mai preso come principio della mia vita, mai. Io voglio che stiano bene i miei figli, basta. Mia moglie di meno. Infatti non l'abbiamo, povera Daria, non l'abbiamo nominata mai. Ma perché non è, non, spero che non l'ascolti la trasmissione. Povera, non l'abbiamo. Daria, scusa, è una gran donna, abbiamo... quindi lasciamo, no, si definisce da sola, sempre pronta a tutto, adesso sta combattendo per le donne a Milano, sta facendo tante cose. Andiamo a essere felici, grazie Roberto, grazie mille. Grazie a te. Ma guardate quest'uomo che vi ha insegnato a vivere fermando il tempo, con un solo vestito per tutte le stagioni, che vi ha insegnato a correre controvento e che vedete sul palco a sbranare emozioni. Che meraviglia, Roberto Vecchioni. Noi ci ritroviamo tra poco, adesso è il momento di GR24.